Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi sono subito reso conto che gli avevo fatto molto male. Ale non dava segni di vita. Il mio sguardo venne accecato da un rivolo di sangue che scorreva lungo la discesa e partiva proprio da dietro la sua testa. L'ho ucciso, ho pensato. Ciao, sono Bernardino, vivo a Gaglioli in Chianti, ho un agriturismo, i clienti che vengono sono quasi tutti stranieri, amo la mountain bike e la vela. E infine abbiamo raggiunto uno spiazzo di sabbia liscia e tiepida e sotto un cielo stellato che prima non avevo visto. Ci siamo spruzzati di Autan anche tra le dita dei piedi e poi ci siamo addormentati sopra le coperte sulla sabbia. Alla mattina il sole ci ha svegliati insieme ai gabbiani ed eravamo completamente soli a destra e a sinistra, la spiaggia di un'isola che era davvero deserta. Mi chiamo Cinzia Lollo, ho 50 anni e vengo da Trento. E la mia storia racconta di come le isole lontane siano più vicine di quanto immaginiamo. Chi c'era probabilmente se la ricorda, è indelebile nella memoria di ognuno di noi. Cinzia, la sarta di Trento, che al live dello scorso anno arrivò dritta da Trento, praticamente entrò irrompendo nella sala collina per il live e ci raccontò la sua storia. La sua storia era questa: erano lei e il suo compagno di allora che andavano con un barchino in un'isola che lei credeva fosse un'isola, in realtà era una penisola collegata da un istmo e non era nemmeno deserta, dall'altra parte era pieno di gente. Però la sua tempra e la sua risata sono indelebili nella memoria di quelli che erano presenti al live e ovviamente anche della nostra. Succederà lo stesso, nel senso che non ci sarà Cinzia, ma ci saranno delle storie, le solite 10 storie tratte dalla stagione, ci saranno tutti gli ascoltatori presenti al live e ci sarà soprattutto Mauro Ottolini e la sua band che musicheranno, faranno musica, la loro musica jazz come base per i racconti e come musica invece per suonare i loro brani. Tutto questo il 26 di giugno al live di Voi Siete Qui, è il quarto anno di fila, il primo anno era Io Sono Qui, il terzo anno per Voi Siete Qui. L'iscrizione è totalmente gratuita, per iscrivervi ovviamente andate sul sito di Radio 24 e scorrete leggermente, c'è un boxino blu con scritto Voi Siete Qui Live, ci cliccate sopra ed è tutto molto facile. Ce n'è ancora di posto. Però, secondo me, se avete in mente di fare qualcosa, decidetelo, insomma. Cercate di capire se riuscite a venire a Milano o se riuscite a venire in via Monterosa 91. È tutto gratuito e di solito è anche tutto molto bello. 26 di giugno, live di Voi Siete Qui. Vi aspettiamo, buongiorno a tutti, sono le 16:11 minuti. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi, guarda un po', raccontiamo una storia. Raccontiamo la storia, in questo caso, come avete sentito, la storia di Bernardino, che fa una di quelle cose che si fanno da ragazzini, di solito con i fratelli più piccoli, no? Una svista per lo più, però una svista tale che lui lo guarda e dice: wow, l'ho ucciso. Se avete dei fratelli minori e avete voglia di raccontarci qual è stata la volta in cui i vostri fratelli minori vi hanno veramente fatto spaventare, 349-238-6666 oppure Voi Siete Qui Radio 24 è il profilo Facebook o Voi Siete Qui R24 è il profilo Twitter, perché alla fine si ha un po' di senso di protezione nei confronti del fratello più piccolo, anche se ti picchi tutti i giorni, anche se ti insulti ai 12, 14 o 16 anni. Susanna dice: sorella minore, rapporti scarsi, ma quando in era anticellulare, rimasta bloccata per neve sulla A7 con mio nipote di pochi mesi, beh, credo di aver chiamato anche la protezione civile. Ecco, non avevano 16 anni, ne avevano di più, però Susanna, quel cicinino si è preoccupata. 349-238-6666, state lì e ascoltatevi la storia di Bernardino. Al tempo dei fatti avevo 14 anni, mio fratello 8, era il 1975. Da piccoli siamo sempre stati tutti molto magri, sia per genetica, sia perché noi negli anni 70 eravamo una famiglia numerosa. 5 fratelli e puoi immaginare quali tipo di sacrifici faceva mamma per metterci al tavolino 3 volte al giorno. Allora andavano di moda delle bici che avevano il sedile lungo, le Torpado, dove ci si poteva stare in due. E io e mio fratello Ale, Alessandro, scorazzavamo tutto il pomeriggio fino a quando non era ora di andare a cena. Ma quel giorno cercavamo posti nuovi, strade nuove da percorrere, e ci siamo trovati davanti ad una salita ripidissima. Ho preso la rincorsa e ho spinto la bici fin dove le gambe hanno retto. Poi ho frenato e mi sono fermato. Ma la bici, sbilanciata dalla pendenza e dal peso di mio fratello dietro, si è ribaltata e io sono caduto con il mio osso sacro sulla testa di mio fratello. La mia famiglia è di 5 fratelli, 60, 61, 63, 68 e 73. Tutti viviamo in casa. Papà era sempre fuori perché lavorava con la SNAM, quindi a quei tempi faceva tipo 3 mesi al lavoro e 1 mese a casa, lavorava nel Golfo Persico, quindi noi eravamo solo con mamma, vivevamo solo con mamma, e quindi ti immagini in casa cazzottate, lotte, cose del genere. Appena mi sono rialzato, mi sono subito reso conto che gli avevo fatto molto male. Ale non dava segni di vita, il mio sguardo venne accecato da un rivolo di sangue che scorreva lungo la discesa e partiva proprio dietro la sua testa. Per quanto lo chiamassi scuotendolo, non rispondeva. L'ho ucciso, ho pensato. Era sera, non c'era nessuno in giro. Non chiesi aiuto, non gridai. Sicuramente per paura lo presi in braccio con una forza inaspettata e corsi con questo corpicino per 500 metri fino a casa di mia nonna. Ricordo la corsa, la disperazione, però sempre senza piangere. Correvo. Ricordo il capo che ciondolava ad ogni falcata senza nessun tipo di resistenza. Ancora oggi mi domando come abbia potuto portarlo in braccio per tutto quel tratto. In condizioni normali sarebbe stato assolutamente impossibile. Arrivato a casa dei nonni, il nonno capisce subito la situazione, prende Ale, lo porta in camera, gli dà 2 colpetti sulla faccia, con le mani bagnate con dell'acqua fredda, finché mio fratello riapre gli occhi. Erano la sera, al crepuscolo, quindi le otto, tutti d'estate, tutti a cena. Io l'ho presi e di corsa lo portai dai nonni, a tipo 500 metri, con questo ragazzino in collo. Io ero un ragazzetto, 14 anni. Però mi ricordo che era leggerissimo e correvo. Questa testa che ciondolava, ancora ho questi ricordi spaventosi, perché per me avevo un fratello morto in braccio. Era solo svenuto, non era morto. Quando il nonno venne a dirmelo dopo pochi minuti, scoppiai in un pianto irrefrenabile. Ancora oggi, dopo tanti anni, la cosa che ricordo con più intensità è quel pianto che feci quando il nonno mi portò la notizia che non lo avevo ucciso. Molte emozioni passano attraverso la vita di un uomo: matrimonio, nascita di un figlio, morte di un genitore, ma un'emozione così forte ancora io non l'ho provata. I woke up this morning, August 3rd. It's been a pretty slow and uneventful summer. Went to visit a friend in Santa Fe, went to New Orleans and went to see my family. Woke up this morning and it occurred I needed one more track to finish up. But I was feeling out of fuel and uninspired. Laid in my bed too long, a little down, a little tired. Met my girl and we walked down Union Street. I was scattered and my head was in a bunch of places. Bought a $350 pair of lampshades and we ate at Berries and I ordered crab cakes. Sono interessato solo ad esprimere emozioni umane fondamentali. La tragedia, l'estasi e così via. E il fatto che molte persone collassino o piangano quando si trovano di fronte a un mio dipinto è una prova che comunico queste emozioni umane. Questa frase l'ha detta Mark Rothko, uno dei più grandi pittori del Novecento. Quando l'ho letta, qualche anno fa, mi è sembrata un po' una frase ad effetto. Bisogna avere le idee davvero molto chiare su quello che ti interessa esprimere con il tuo lavoro per dire una roba del genere. E poi io soprattutto non sapevo nemmeno chi fosse Mark Rothko. Ma nonostante tutto, quella frase mi è rimasta in testa. Così l'ultima volta che sono stato a Londra ho voluto andare alla Tate Modern a verificare di persona. Dunque Rothko nei primi anni 60 aveva dipinto delle grandi opere per un ristorante di New York con l'intento malevolo di dipingere qualcosa che guasti l'appetito a tutti quelli che entreranno in sala per mangiare. Infatti, dopo aver consegnato il lavoro, non fu felice di vedere le sue pitture come sfondo ad una sala da pranzo. E allora tornò a riprendersele e consegnò 9 di quei quadri alla Tate, occupandosi di persona anche del progetto di installazione. Così al terzo piano ha chiesto di costruire una grande stanza isolata dalle altre, con una particolare intensità della luce su ogni opera, e ha anche suggerito la distanza ottimale per osservare i quadri. Io sono un profano assoluto di arte, ma quando sono entrato in quella stanza, effettivamente mi è successo qualcosa. In quella stanza non c'è posto per schemi mentali o sovrastrutture, per classificazioni. Appena entri, capisci immediatamente perché un pittore famoso per le sue grandi tele monocrome si è sempre arrabbiato quando veniva definito un astrattista. Rothko non si occupa di forme e colori nelle sue opere. Lui racconta dell'uomo. Rothko ti obbliga, senza nessuna costrizione, a un viaggio totalmente emotivo. In quella stanza io ho attraversato ricordi che avevo dimenticato o avevo sottovalutato. Dentro a quei quadri c'era quella notte che ho passato in un rifugio e c'era quando, dopo cena, in compagnia di gente che non conoscevo, ho raggiunto una vetta alla luce della luna piena. L'aria era così limpida e la luce della luna così forte che proiettavamo le nostre ombre. C'era la prima volta che ho visto un ghiacciaio perenne, i crepacci, i seracchi. C'era il rumore del ghiaccio che si muove e il rumore dell'acqua di sotto. C'ero io nel giorno in cui ho consegnato le chiavi della mia prima casa di Milano al nuovo proprietario. E c'era l'ultimo sguardo prima di andarmene. C'erano le strade della prima tournée che ho fatto, le stanze dell'albergo in cui ho dormito e il teatro dell'ultima replica. C'era la sera in cui sono tornato a casa quando mia madre ha avuto bisogno di me. C'era la faccia smarrita di mio padre quando mi ha visto e c'ero io il giorno dopo, quando sono tornato a casa mia un po' diverso dal giorno prima. C'era qualche amico e c'era la mia fidanzata. In quella stanza al terzo piano a Londra, quei 9 quadri fatti 55 anni fa da un pittore lettone naturalizzato americano racchiudono meglio di un hangar della Silicon Valley la memoria emotiva di tutta l'umanità che si avvicina per osservarli. Su quelle tele la storia individuale di ognuno partecipa a qualcosa di universale, si riconosce nei suoi colori, un segreto profondo sull'uomo, un distillato purissimo delle emozioni migliori che l'uomo possa provare. I have called you children, I have called you son, what is there to answer if I'm the only one? Morning comes in paradise, morning comes in light, still I must obey, still I must invite. È splendida la foto che ci ha mandato Bernardino, in cui ci sono ovviamente lui e immagino suo fratello. Sono gli anni 70 probabilmente, sono in riva a un molo, ci sono delle barche, un porticciolo dietro. Lui c'ha una voglia di far sta foto proprio zero, gli occhiali a goccia da narcotrafficante, quelli che andavano in quegli anni e sono un po' tornati adesso, ma la roba meravigliosa è suo fratello di fianco, piccolino, biondino, vestito come un frate in giro per missioni, con una croce al collo che si intravede appena dalla fotografia, ma basta guardarla, si vede molto bene. Pronto Bernardino? Ecco, ciao. Buongiorno, come stai? Tutto bene, tutto bene. Dove ti trovi? Adesso mi trovo in un casale qui nel Chianti, nel mio casale. Sto aspettando delle persone da Singapore. Oggi c'è questo arrivo. Dritti dritti da Singapore proprio? Dritti dritti da Singapore, sì. Tu hai un agriturismo, giusto? Non è un agriturismo, è una casa vacanza dove l'affitto praticamente d'estate. D'inverno ci vivo io perché mi piace stare là al camino . E d'estate invece... E dove vai a vivere d'estate tu? C'ho un'altra casetta giù a Gaiole e mi trasferisco lì. Gaiole in Chianti è un posto magnifico. Gaiole in Chianti è dove corrono l'eroica, giusto? Bravo, l'eroica. È famosa per l'eroica. È una sensazione unica fare l'eroica. Io, siccome sono un ciclista, la faccio tutti gli anni. Strade bianche, abbigliamento d'epoca, biciclette rigorosamente d'epoca, durissima perché è una fatica immane. Però il paese si riempie. Ricordo, guarda, ci sono stato in un'occasione qualche anno fa, proprio in occasione dell'eroica, ed era stato un bel periodo. Insomma, quindi adesso tu sei sostanzialmente nel Chianti, in un casale, probabilmente l'immagine che qualsiasi inglese invidia in questo momento. Invidia, sì. Chiunque stia ascoltando la BBC in ora di 24 adesso non sa che cosa si sta perdendo, Bernardino. L'hai ereditato o sei riuscito a prendertelo? No, l'abbiamo comprato, fu un'occasione nell'89. Ah, tanti anni fa. Comprammo a mezzo con un amico e siamo andati a vivere lì. Con gli anni l'abbiamo sempre più abbellita, abbiamo fatto la piscina e poi, visto che la cosa tirava, funzionava bene, abbiamo cominciato a affittare prima una parte e poi... E ha un nome il casale? Potere il Trebbio. Il Trebbio, perfetto. Ho fatto anche pubblicità. Ma che se ne frega la pubblicità. No, senti, dimmi di Alessandro, sta bene? Alessandro, quella storia fu drammatica per me, perché ancora di notte mi riscuoto, mi risveglio con questa scena. Ma guarda, infatti io ho raccontato la storia di questi quadri, di questo pittore, perché era chiaro che, diciamo, c'era un incidente nella tua storia, ma era molto più forte l'aspetto legato alle emozioni, cioè al fatto che tu dici: io quella roba lì non l'ho mai più provata, quando mi hanno detto, no, era solo, quando il nonno mi ha detto era solo svenuto. Sì, perché la sensazione forte che ricordo ancora adesso è il pianto liberatorio, il pianto di gioia, che non ho mai fatto più un pianto così, perché praticamente non era morto, era vivo, quindi ancora oggi... C'è una piccola differenza, no? C'è proprio una piccola differenza. Ah, sai cosa? Non è morto, è ancora vivo. È piccolissima, sì. Alessandro... Per me era morto, era, ciondolava da tutte le parti mentre lo portavo. Immagino. Come sta Alessandro adesso? Alessandro bene, benissimo. Lui fa il comandante di yacht per un noto industriale di supermercati, che non dico il nome. È un ragazzo in gamba, ha le mani d'oro, sai, di quelli che fanno tutto, sanno fare tutto. Cioè, è uno skipper, quindi? È uno skipper. No, non è in barca a vela. È proprio comandante... E quanto è lunga la nave? Che... È 24 metri. Ah, e quindi vive dove? Vive al porto? Vive sulla barca? No, fa stagionale. D'inverno sta a casa a Porto Santo Stefano all'Argentario. Ah, ok. Dove c'è la barca? Dove vedi anche quella foto che hai descritto. Lì siamo all'Argentario. Ah, lì siete all'Argentario, perfetto. Esatto. Ed inverno invece, ed estate viene imbarcato e gira. E porta la barca dove il signore vuole. Grecia, certo. Sardegna. Dov'è adesso? In questo momento dov'è Alessandro? Non in lo questo sappiamo. Momento all'Argentario. È sempre là, quindi voglio immaginarlo così come in quella foto, vestito come un frate francescano che aspetta di fare dei proseliti all'Argentario. È stato un piacere, Bernardino, grazie mille. È stato un piacere mio, Matteo, grazie. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Vita. Ciao anche a te. Ciao, ciao, ciao. Bernardino, si percepiva ancora l'emozione di quando... Beh, perché tu per 2, 3 minuti, 5 minuti pensi che tuo fratello è morto. Cioè, per te è morto. Anzi, l'hai ucciso tu. Gli sei finito con l'osso sacro sulla testa. Invece no, sai cosa? È vivo. Se avete storie... Ecco, questa in parte era un po' una storia di avventura, se volete. Se avete delle storie di avventura o di disavventure da inviarci per il mese di luglio, quando saremo in onda, noi le prendiamo e ci facciamo una puntata. Voi siete qui, @radio24.it, cose che vi sono successe, dalle quali siete usciti alla grande. Non dico l'isola del tesoro, ma una cosa simile. È arrivato al Raffaella 349-238-6666. Mio fratello, 9 anni, prende la 500 della mamma, era al 67, e prende me, 7 anni, e ci porta a fare un giro, circa 2 chilometri. Tutti sconvolti, ma noi ci siamo divertiti. L'ultimo, Paolo, 20 anni fa ho chiesto a mio cugino Marco di reggermi il bersaglio per sparare con la carabina ad aria. L'ho colpito al braccio, ma dai! Che spavento, fortunatamente il piombino non è penetrato. Marco adesso è uno dei migliori amici. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margheritaina. Grazie soprattutto a Bernardino, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Sono Tiziano, vivo a Montelupo Fiorentino, la storia di domani è la mia e parla di quando a 30 anni ho deciso di prendere un cane. Questa è la mia storia e io sono qui.